Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar! Eccoci caro Alessandro, tutti gli ascoltatori. Come buongiorno va? A tutti, buon mercoledì 16 dicembre e un augurio agli Adelaide. Adelaide, sì. Pensa, Adelaide se la contesero tutti i principi d'Europa, poi finì a sposare l'imperatore Ottone, ma tanto se la contendevano che insomma si è dovuta fare un bel po' di carcere sul lago di Garda, perché non si capiva bene chi se la doveva sposare. Ma è così, erano tempi così, si contendevano le donne allora in carcere. Ma infatti ieri sera sono riuscito a far ammettere Tro Sgarbi che vorrebbe sposare Marilena Boschi, quindi sai, no. Cambiano i tempi e cambiano le donne, Ballarò, però attenzione. È il gioco del potere, il gioco del potere. Cioè Vittorio Sgarbi vorrebbe sposare Marilena Boschi? Sì, ha ammesso che non solo per la Venustà, ma è soprattutto per sistemarsi patrimonialmente, perché dice che non ha una lira malgrado il vitalizio, però è stato molto divertente. Vabbè, insomma, mi sembra giusto. Allora, parliamo di questo se volete, non parliamo solo di questo, ma 800 24 0024, d'altronde Oscar, come dire, da giorni e lo sarà ancora la notizia del giorno, è un tormentone, il tema dominante, tanto che la Boschi dice prima di Natale facciamo presto, perché vuole, sa che i numeri in Senato e alla Camera sono dalla sua parte, vuole chiudere questa vicenda, ma lascerà strascichi, secondo me sì, Beh, strascichi politici un po' sì, perché come vedi poi i giornali continuano a dare particolari su aspetti delle cose cui si indagano le procure oramai formalmente e che legano ipotesi di affari, affidamenti a soci di cooperative, nel caso della Banca d'Arezzo, e a entourage di amici e conoscenti della famiglia invece Renzi, nuovi particolari che poi escono, vedremo le indagini, però lo strascico politico resta. Cioè. Allora, però ti faccio sentire, sentite cari ascoltatori, cosa dice Renzi? Renzi ieri è andata porta a porta, ha detto che il papà della Boschi ha già pagato, sentite Renzi. CDA di Banca Etruria, compreso il signor Boschi, è stato sanzionato da Banca d'Italia e il padre del ministro Boschi, come tutti i cittadini, ha pagato una sanzione. Quindi ha pagato. Quindi... Beh, ha pagato una sanzione, sì, una delle contestazioni. Adesso ci sono le indagini su episodi molto più seri di mala gestione, di sovraffidamento a soci, a parti correlate, non seguendo le procedure che nelle banche dovrebbero essere rigorose per evitare appunto affari ad amici degli amici, e vedremo. Ci sono ormai 3 indagini penali in corso su Banca Etruria, quindi ha pagato su quella sanzione. Il resto lo dovremo vedere. Prendere. Beh, sta di fatto che sulla stampa oggi il nuovo amministratore delegato di Etruria, Bertola, dice faremo causa agli ex vertici. Io da piemontese dico Bertola. Bertola. Non Bertola. No, vabbè. È giusto. Battuta, ma... No, ma è giusto. Faremo causa. E quindi un'altra. Si vede, le indagini andranno per le lunghe, vedrai, e anche la commissione parlamentare d'inchiesta, vedrai che questo diventa, come per l'affare Mitrokhin, come per la commissione d'inchiesta sulla P2, questa cosa la dico non a caso, visto che è morto Licio Gelli. Ha preso atto che ad Arezzo oramai l'affarismo bancario era nelle mani di altri. Questo è il motivo. dice non c'è più spazio per me. Dici che è per quello. Aveva anche d'atto. 96 anni. Una orrenda battutaccia, ma insomma. Certo, bisognerà interrogarsi su questo polo magnetico rappresentato da Arezzo, questi affari Arezzo. No, che mettono insieme politica, banche, no, ma al di là di questo, no, è sicuramente un tema che ci trascineremo a lungo, perché la commissione parlamentare d'inchiesta poi diventerà un teatrino politico in cui per un motivo o per l'altro, insomma, rispetto al merito delle indagini, i regolatori hanno fatto il loro mestiere o no, io penso di no, ma vedrai che invece si insceneranno contese politiche gli uni contro gli altri, perché per esempio ieri sera ho appreso da Brunetta che tutto nasce dalla vicenda dello spread del 2011 contro Berlusconi. Oh, ancora, c'è questa ossessione. La testa, questa ossessione, detto, cosa c'entrano il golpe, le banche? No, c'entrano. Ma vedremo. Vabbè, diciamo che comunque parleremo anche di Europa che ci bacchetta sui migranti. Guarda un po', l'ennesima bacchettata dell'Europa. Però so che dell'Europa ti ha colpito questa cosa che ho letto in rassegna stampa su Facebook. Certo, ma ti pare che con tutti i guai che abbiamo di un'Europa sfranta, sì, dall'immigrazione, non avere una qualunque straccio di politica estera comune malgrado quello che succede nel Mediterraneo, ISIS e così via, questi si mettono d'accordo per vietare Facebook a chi ha meno di 16 anni. Ma hanno fatto benissimo. Ma come hanno fatto benissimo? Oscar, io lo metterei a 18, a 20, a 22, cioè i figli sono preoccupatissimi. L'altro giorno mi hanno preso l'iPad, ho dovuto cambiare già la password mille volte, ma la scoprono, non si sa ma come. Ma certo che la scoprono, figurati. Erano su YouTube e guardavano dei video, sai, quei video, degli scherzi, ma subito sequestrato. Ma siete matti, cioè... Ma perché? Ma perché sono preoccupato io? Cioè, ma voglio sei preoccupato dire. Di che cosa? Ma sono talebano in questo, la metterei a 30 anni il divieto per un consiglio, affida a loro la cura dei tuoi conti economici e dei conti bancari, di sicuro ne capiscono già più di noi, punto numero uno, punto no, numero uno. Ma ti pare che poi l'Europa può vietare ai sedicenni di andare su Facebook? Ma a parte, vabbè, su questo è vero, si fanno i profili fake, diciamo, però ma non ha senso oggi un sedicenne in Italia li vogliamo far votare e poi gli impediamo di andare su Facebook. Ma guarda che ci sono i pericoli su Facebook, anche i pericoli. Certo, c'è il sesso, certo. Vabbè, ma sì. Questo però credo che oramai di aver capito i bambini da quando sono piccolissimi sono bombardati dovunque da queste cose. Figurati, 16 anni, no? Io sono veramente allibito. Ci sono questi segnali che vengono, non hanno veramente niente di meglio da fare. Questo ti posso seguire, ma sono d'accordo. Questa io la metterei a 18, a 20, a 22. Mi fa improvvisamente il rigorista. A 30 anni, no? A 30 anni Facebook, no. Solo per vecchietti. Segui la linea della disinvoltura che leggiamo su intercettazione del giornale invece per Ingegner De Benedetti che allegramente prima del decreto legge chiamava Intermonte, cioè compra qua, compra là perché io so che fanno il decreto. Però posso dire, questa è una cosa strana, cioè Nicola Porro oggi scrive appunto che De Benedetti nelle intercettazioni della Guardia di Finanza diceva comprate popolari subito, però l'intercettazione non c'è, si evince che lui l'ha letta evidentemente. Si dice che lui deve aver letto un brogliaccio, forse non lo sappiamo, è così. Perché, però ci sono particolari che sembrano indicare che lui l'ha letto, ecco. Però a volte mi sembra anche che abbia letto però lunghi brani di sintesi, per questo io non so se sia un brogliaccio più che l'intercettazione, perché lui a un certo punto tira corto, quindi per chi tecnicamente segue la vicenda di come si fanno gli articoli sulle intercettazioni sarei più per il brogliaccio, però vediamo. Comunque scrive, se ne assume la responsabilità. Comunque divieto fino a 25 anni per entrare su Facebook, fa bene l'Europa, fino a 25 viva l'Europa anni. Sì, adesso mi sono un po' abbassato da 30 a 25. Abbiamo una carica di autoritarismo paterno. Sì. Talebanismo paterno. Talebanismo. Non si ispira invece a questa linea alla legge di stabilità che proroga per l'ennesimo anno le concessioni agli stabilimenti balneari a in barba alla concorrenza. Questi stabilimenti balneari effettivamente come fanno tutti gli anni a ottenere... E come fanno? Hanno una forte rappresentanza, evidentemente. Hanno una forte rappresentanza, votano, come ovvio, e ogni anno ci sono le amministrative e così via eccetera, e quindi niente, questo significa naturalmente rinviare per l'ennesima volta investimenti e accorpamenti su questo segmento del nostro turismo, perché basta fare un paragone con perché vanno in Spagna, in Francia, perché nell'offerta del turismo balneare lì gli stabilimenti si vede che gente investe di più, sono più grandi e quindi ti offrono migliori servizi, migliore intrattenimento per chi ci va con i bambini piccoli eccetera. Noi col frazionamento e il piangina che ogni anno dicono ci dovete protrarre per non fare nuove gare, certo, alla fine i partiti li accontentano, però poi gli investimenti non ci sono. Guarda, ci scrive subito su Twitter Alex Corlazzoli, è un caro amico anche, non so se tu lo conosci, ma scrive, è un maestro, scrive sul Fatto Quotidiano. Facebook va obbligatoria l'educazione civica, no divieto a 16. Scrive a me, a te, no? No divieto a 16 perché lo vorrebbe 25, credo che Corlazzoli non sarà della mia, ma io lo metterei a 25, 22 dai, 22 almeno, 22 lo posso accettare. Comunque hai visto che hanno ritirato nottetempo il regalino per l'aeroporto di Firenze che era comparso nella legge di stabilità? E come no? C'hanno un senso del limite della vergogna. E come no, esatto, ieri si parlava di questo emendamento per allargare l'aeroporto di Firenze, è stato subito ritirato alla prima polemica. Caro Oscar, ci sono ma delle ascolt... è che è stato ritirato perché se ne erano accorti gli altri, cioè questo è, io lo trovo divertente, perché si apriva forse un nuovo fronte un pochino così di polemica. Ci avevano provato, però questo ci avevano provato, se avessero pensato che si apriva un nuovo fronte forse non ce lo dovevano mettere. Ma la politica non è questa, che tenti le manine in segreto di notte che nessuno se ne accorge, poi se qualcuno se ne accorge e devi cercare di rimediare. Ah, fammi ricordare a questo proposito oggi, io invito tutti quelli che possono, vogliono, l'editoriale oggi della Stampa, il mio amico Alberto Mingardi, che attacca frontalmente quelli che vogliono gli aiuti di Stato, tra cui Franco Bassoni, però a un certo punto c'è una perla che dice: non c'è bisogno di una filosofia politica per fare i politici, anzi di solito i politici preferiscono farne a meno. La trovo una frase grandiosa. Allora, i nostri ascoltatori, Sergio ci chiama da Milano, buongiorno Sergio. Buongiorno Milan, buongiorno Giannino. Ecco. Allora, mi sembra che questa vicenda della richiesta di dimissioni della Boschi e tutte queste polemiche di scarica barile tra Banca d'Italia, Governo, Europa, su chi ha vigilato, chi no, chi ha fatto, chi non ha fatto, serva un po' a nascondere, a mimetizzare il problema grosso che si sta affacciando, che è quello legato ai crediti inesigibili che sono nella pancia delle banche. Stiamo parlando di cifre che vanno dai 200 ai 400 miliardi, che sono roba brutta che sta all'interno delle nostre banche. Bravo, con queste nuove regole del bail-in, mi sembra che nel 2016 noi assisteremo in Italia all'inaugurazione di una nuova disciplina sportiva, cioè l'inseguimento col forcone dei banchieri. Però lei dice, Sergio, cioè la vicenda Boschi in realtà è una vicenda minore rispetto a quello che c'è. Ma Sergio, secondo me ha ragione. Pensate tutti che siete in ascolto, se dovessimo applicare a questo monte di crediti in sofferenza 200 miliardi usando il criterio prescrittivo, diventano almeno 340 usando, sommando anche gli incagli, ma se noi applicassimo il coefficiente di abbattimento dei crediti deteriorati usati nel meccanismo adesso di liquidazione delle quattro banchette, cioè l'83%, è stato abbattuto dell'83% il valore di Libor. Allora pensate, significa che nelle banche italiane, se lo applichiamo a 200 miliardi, ecco, avreste l'idea che quindi spariscono 180 miliardi improvvisamente di garanzie di passività, il che significa che bisognerebbe andare con ricapitalizzazioni a nastro, per cui i soci attuali delle banche italiane non hanno minimamente i denari. Quindi Sergio ha esattamente colto un punto preciso. Un punto importante. Tra l'altro, sulla questione Boschi, mentre tu eri a Ballarò ieri, a Di Martedì c'era Enrico Letta, ex presidente del Consiglio. Senti come lui voterebbe se fosse ancora, sapete che si è dimesso e quindi ha lasciato la Camera. Se fossi in Parlamento io oggi voterei convintamente contro la mozione di sfiducia e voterei quindi per evitare la dimissione del ministro Boschi. Non che ho nessun signore, dubbio. Che signore, non è proprio, eppure qualche sassolino nella scarpa dovrebbe averlo, Ricoletta. Ci è già capitato un paio di volte di dirlo in questi mesi. Io per esempio credo che tornerà sicuramente alla politica Enrico Letta, però il modo in cui sta vivendo il fatto che se n'è andato, è andato davvero a tenere corsi a Sciences Po a Parigi, eccetera, eccetera, a me lo rende una eccezione degna di grande attenzione e rispetto. Sì. Il panorama politico in cui D'Alema aveva annunciato che lasciava la politica, non so quanto. Ma la politica non è fatta per il rispetto, e infatti è stato rottamato in 448, caro Oscar. D'accordo, però vedrai che in qualche modo il tempo galantuomo, io credo davvero nel caso di Enrico Letta che ci sia non il ritorno e la vendetta, non fa parte del suo spirito, però è anche vero che coloro che ritengono solo con la forza di essere il futuro rottamante alla fine si trovano improvvisamente in una Leopolda da un giorno all'altro a sembrare quasi autorottamante. E attenti che la politica, ecco, da una parte e dall'altra non consente eccessi. Allora, sentiamo Gianluca che ci chiama da Lucca. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno Giannino, buongiorno Milan. Lei che dice, si deve dimettere? Sì, secondo me sì. Contrariamente a quanto pensa Enrico Letta, secondo me si dovrebbe dimettere. Per il semplice motivo che lei rappresenta un partito che storicamente ha sempre professato la trasparenza, e andando indietro nel tempo il compianto segretario Enrico Berlinguer tirò fuori la questione morale e poi il rottamato, come avete detto voi, Massimo D'Alema disse la storica frase: chi è solo disse: chi è solo sfiorato dal sospetto si deve dimettere. Quindi deve io la ritengo innocente, perché chiaramente lei non può neanche sapere cosa faceva il padre, ci mancherebbe. Però. Ma per un discorso di trasparenza, per un discorso di storicità del partito, e aggiungo che se l'avesse fatto, se fosse stato uno della destra in questa situazione, non c'è dubbio, avrebbero sollevato un polverone il PD. Guardi che io ho 56 anni e ho sempre votato PD, quindi mi posso anche permettere di aprire bocca. Quindi insomma, no, lei dice, Gianluca, per questi motivi, per questi motivi. Anzi, le dirò di più: se fosse una signora, lei dovrebbe giustamente chiedere il voto di fiducia, ottenere la fiducia e poi dimettersi. Ah, addirittura. No, Gianluca, addirittura. Vedi come si sente la passione di chi vota una cosa, perché quello politica sarebbe troppo politico. Sì, certo, ma non è fatta per signori la politica, cioè nel senso che ci sono anche i signori, però sì, come fece Ugo La Malfa qua nel 75, storico leader del PRI, c'era un'accusa evidentemente fondata di finanziamento illecito anche al Partito Repubblicano e ad altri da parte di industriali petrolieri. Lui si alzò in Parlamento molto prima di Bettino Craxi e non essendo colpito da indagini personali, e disse: sì, non solo le ho presi, ma me ne assumo la responsabilità e penso che ho sbagliato rispetto alla legge, ma il mio compito è quello di dire come e perché l'ho fatto e dichiararlo in quest'aula. Una roba rimasta senza precedenti. Allora, Oscar, diamo gli Oscar, dai, io ne ho uno. Lo darei all'articolo di Saviano? No, perché oggi no, questa roba interessante, il ragionamento che fa in filo di paradosso su: ma come il Presidente del Consiglio e si fa coinvolgere pubblicamente nella linea difensiva del padre, gli dice parla, stai zitto. Vediamo, intanto la sigla, And the Oscar goes to... Il mio caro Oscar, sono tempi bui. Cerca di capirmi, hanno arrestato anche il magazziniere del Milan. Perché si rivendeva. Ma non è che si rivendeva. Gli hanno trovato le scarpe di Emanuelson. Ma tu compreresti mai le scarpe di Emanuelson? Ma io dico, ma. Infatti, secondo me posso dire. Ci vuole un attimo ma anche. No, ma bisogna qui fare un'istanza alla procura. Non è un furto, perché non rappresentano un valore. Cioè, gli hanno trovato due calzoncini e le scarpe di Emanuelson. Ma no, non neanche di Bacca, di Bonaventura. Emanuelson. No, l'Oscar va a lui, perché ti capisco. Sono tempi bui. Vai, solidarietà a Galliani. Allora, il mio invece va ai medici chirurghi del Bronzu di Cagliari. Giusto. Perché ho letto sulla stampa di oggi che sappiamo c'è tutta questa nuova questione della direttiva europea sugli orari e dei tempi di stacco minimo turno per turno, per cui in legge di stabilità ci sono le risorse per assumere 6.000 medici e stabilizzare un po' di migliaia di precari, ma loro i medici del Bronzo di Cagliari continuano a operare, a fare trapianti di reni pur non rispettando gli orari di stacco minimo, perché dicono: noi siamo medici e perché dice un trapianto di reni è un po' più importante di un turno di lavoro, e dicono fare i trapianti è in sicurezza, non è chiaro, che facciamo stupidaggini. Allora, secondo me questo è un buon esempio da riconoscere, e bravo anche la stampa che gli dà una colonna sul giornale, perché queste cose secondo me servono quanto più delle sciocchezze dei limiti di 16 anni a Facebook. C'è un ascoltatore, Antonio, dice: mi basta il divieto di Facebook a pranzo la domenica. Io accetterei solo questo effettivamente. Ma questo dipende però da come si ha il rapporto con sì, i figli. Ma figli devo accettare una norma per cui 22 anni, non più sotto. Questi investono, 16 anni organizzano reti di prostituzione, fanno cose. Ma che 16 anni conosci, caro Oscar? Vabbè, dai. Scusami, ma qui nella non troppo avanzata tecnologicamente Roma, non so se ti ricordi due anni fa, no, cioè, sì, per sì, quanti sì, mesi i giornali hanno raccontato cosa. E figurati poi gli metti il limite di Facebook. Allora, noi tra poco parliamo di Europa e migranti. Avremo Khalid Shaoukhi, avremo il sindaco di Verona Flavio Tosi. Insomma, l'Europa dice: anche con la forza, ma dovete prendere le impronte, care autorità italiane. Tra poco. Siamo qui, caro Oscar, ti faccio sentire Alfano. Vogliamo sentire Alfano come ha risposto alla questione: l'Europa ci dice usiamo le impronte, la forza, per prendere le impronte digitali. Senti come risponde. Io credo che ci siano anche delle sentenze di Cassazione che autorizzino un uso proporzionato della forza per raccogliere le impronte digitali. A me viene da dire: allora perché non lo facciamo? In due casi su tre non si fa. in Italia. Non si prendono le impronte statistiche, No, questi, due casi su tre è la contestazione venuta sui formulari dell'Unione Europea. E beh, insomma, poi sarà una contestazione istituzionali e anche la polizia italiana dicono no, i numeri non sono veramente ben presi. E comunque è vero che esiste questo fenomeno, cioè siccome c'è questa norma dell'accordo di Dublino che resta vigente, della presa in carico al primo paese dell'identificazione se le quote di ripartizione europea non funzionano, e infatti non funzionano, e allora molti quando vengono in Italia oppongono resistenza fisica. Il problema è a che punto bisogna arrivare di violenza e coartazione per prendere impronte nitide, perché se uno basta capisce che ti tira un po' la mano e tu le impronte non vengono nitide. Beh, questo è vero, poi però bisogna fare, lo blocchiamo nei morsetti medievali No, il tema c'è, sì, perché se uno lascia le impronte per il trattato di Dublino, appunto, come hai detto, è obbligato poi a rimanere nel paese dove le impronte sono state rilevate fino alla fine della pratica, se ha diritto a essere considerato un profugo. Comunque, vogliamo chiedere ai nostri ospiti, intanto Flavio Tosi, sindaco di Verona, buongiorno. Buongiorno a voi. Così come salutiamo Khalid Shawki del Partito Democratico. Buongiorno. Tosi, è giusto che l'Europa ci imponga questa richiesta? Ma l'Europa è grottesca, ha scaricato sull'Italia, allora l'Italia a suo tempo, e fu allora il governo Berlusconi con il ministro Pisano nel 2003 che approva il trattato di Dublino 2, perché i trattati di Dublino sono tre, nel quale è prevista sta scempiaggine che il paese che li fotosegnala se li tiene. E dico, siamo stati degli stolti, perché noi siamo un paese di frontiera, e allora quello è un accordo che fa comodo a chi non è di frontiera europea, i paesi scandinavi, i paesi del centro Europa, ma era chiaro che era un accordo fregatura per tutti i paesi di confine con il mondo extraeuropeo come l'Italia. E quello è l'errore di fondo. A fronte di questo, una delle poche armi difensive che ha l'Italia e che ha messo in pratica scientemente è stata quella che la gran parte di chi arriva qua, sapendo che chi arriva qua considera l'Italia paese di transito, ha deciso, ovviamente non poteva formalizzare questo ordine perché sarebbe in violazione delle direttive europee, ma praticamente lasciateli andare, fateli scappare, non fotosegnalateli, chi vuole andare vada. E tant'è che i due terzi buoni, anzi di più alla fine, di chi è arrivato in questi ultimi due anni ha preso la via, ha passato la confine e è andato in altri paesi. Ma perché è grottesca, però? Cioè non fa bene. È grottesca l'Europa, perché prima scarica sull'Italia il problema dicendo arrangiati, poi il problema diventa europeo quando attraverso l'ex Jugoslavia hanno cominciato ad arrivare per via terra dei numeri molto più alti, fra l'altro, perché sono molto più alti i numeri che arrivano via terra da di là. E quindi allora il problema all'Europa se ne può. Però dice perché più che scaricare il problema ce lo siamo presi in casa, cioè accettando appunto questa cosa, come ha detto lei. No, abbiamo fatto un errore iniziale, col Dublino 2 non c'è dubbio, però a questo punto l'unica arma difensiva è quella di lasciarli andare in giro per l'Europa in modo tale che l'Europa si ponga un problema complessivo. Perché se venisse applicato in maniera rigida il Dublino 2, se li tengono tutti la Grecia, se li tengono tutti l'Italia e tutti gli altri paesi europei sono contenti che se ne arrivano. Per fortuna invece appunto li si manda in giro per l'Europa, in questo modo il problema diventa europeo e quindi bisognerà rimettere mano al trattato di Dublino 2, bisognerà ragionare davvero sul fatto che di fare una polizia di frontiera europea che sia realmente efficace, delle politiche di espulsioni altrettanto efficaci, di respingimenti, o si prende questo problema in maniera seria, altrimenti qua se ne arrivano in Europa a botte di 500.000, 1.000.000 all'anno e voglio vedere come si fa a reggere. Pensate, capito Oscar, cioè li lasciamo in giro così che facciamo capire all'Europa con questo mezzo, non so, di pressione a questo punto politica che non va bene. Però voglio dire, questo significa che poi si alimenta la catena per la quale poi l'Europa non fa partire la redistribuzione di chi è in Italia, il contenzioso resta infinito. Oggi leggo che su Frontex, cioè appunto l'agenzia comune della sicurezza che dovrebbe essere rafforzata a tutela dei presidi dei confini esterni che noi rappresentiamo, addirittura ci sarebbe l'idea di dire però si può arrivare anche a un punto oltre il quale Bruxelles può imporre contingenti ai contingenti di Frontex che si sta trattando di mandare sui paesi di frontiera esterna dei comportamenti da tenere anche contro l'atteggiamento delle autorità nazionali. Allora, quando uno legge queste cose dice: questi sono matti, non è una cosa impossibile che avvenga. Ti immagini un contingente di Frontex che sta a Palermo o a Lampedusa e si comporta in maniera contrastante con, e non concordata con l'autorità italiana? No, a me sembrano segni non abbiamo l'esercito europeo comune che ha perso, che ha perso proprio la... Possiamo dare, a me, io personalmente, la solidarietà personale all'onorevole Sciauchi, che ha fatto un'intervista. Sciauchi, ma è vero che dopo un'intervista che ha fatto a Libero sono arrivati una serie di insulti ieri, perché lei ha parlato del buonismo un po', che è stata un po' la rovina anche, e non l'ha presa bene? Chi è che non l'ha presa bene? Chi è che l'ha insultata? Chi è che l'ha un po'... Ma intanto grazie per la solidarietà. È paradossale che insomma una persona come me, che insomma non sono mai stato, diciamo, di estrema destra né anti-islamico, anzi ho provato a segnalare semplicemente quello che è una sfida che non possiamo più attendere, cioè quella che condanniamo l'ISIS, bisogna condannare appunto il terrorismo, ma bisogna cogliere questa occasione anche per fare una seria riflessione interna al mondo islamico, anche quello italiano e europeo. Chi non l'ha presa bene? Chi è che non l'ha presa? Ma purtroppo tantissimi, cioè più di quelli che mi aspettavo, questo è un elemento ulteriore su cui riflettere. Tanti giovani, in particolare insomma il cosiddetto coordinamento islamico di Milano. Cioè, l'hanno accusata di che cosa? Di essere antimusulmano, di essere... Ma è il classico film di chi non ha il coraggio di affrontare nel merito una questione che dura da secoli e non da qualche anno, e quindi si cerca di fuggire nel vittimismo oppure nel complotto, addirittura offendendo le persone o dicendo che hanno tradito chissà quale appunto principio. C'è un problema di libertà e di democrazia interna, e soprattutto quello che a me preoccupa è che troppi giovani italiani di origine musulmana sui social network in queste ore, in questi giorni, sono... portano avanti tesi che non hanno nulla a che fare con quelli che sono, diciamo, i valori che... Ma no, ma solidarietà sicuramente. Ha sentito però Tosi dice: l'Europa è grottesca, no? Che scarica il problema, cioè questa Europa che ci impone di prendere le impronte digitali, e noi allora lasciamoli andare in giro per l'Europa. Lasciamoli andare, di questi tempi è un'affermazione direi altrettanto complicata da sostenere. Noi dobbiamo ovviamente tenere presente che non possiamo pensare minimamente di rischiare, lasciare una persona fuori dal controllo in un contesto dove appunto c'è anche il rischio, no? del terrorismo, eccetera. Però è un dato di fatto che l'Europa non può pensare di trattare l'Italia come un paese qualunque, se non un paese di frontiera europea. Non possiamo accettare di essere, tra virgolette, commissariati, come qualcuno ha ipotizzato. Si fanno le identificazioni quando c'è la certezza che queste persone poi diventano di fatto parte di una popolazione rifugiata europea. Di conseguenza non si vede neanche più la forza quando un profugo sa che si fa identificare in Italia, ma potrà poi liberamente scegliere il paese dove vuole andare. Quindi... c'è stata l'apertura della Merkel, voglio dire, questa cosa, abbiamo avuto un aumento di persone che hanno loro volontariamente voluto lasciare le impronte. Solo che se c'è l'identificazione e poi la pratica dura un anno e mezzo, questo mi sembra un po' anche il problema. Su questo si sta facendo di più, si deve fare molto di più, ma non possono pensare i paesi appunto del nord Europa che l'Italia si deve accollare non solo la primissima accoglienza, ma addirittura quello poi di tenersi nel paese migliaia di persone che non vogliono rimanere. Io sfido chiunque a identificare con la forza, e ha ragione il vostro primo ospite, persone che appunto sono in fuga e che rischiano di essere sottoposte a un'ennesima tortura, perché sono scene inguardabili. Sì. Però io vorrei capire, Tosi, domani Renzi va in Europa, no? Cioè questo, cosa dovrebbe dire alla Merkel? I giornali raccontano, farà il braccio di ferro, a me fa un po' ridere questa cosa, ma... cosa di solito dire? Questo è quello che si racconta da parte della cancelleria italiana ai giornali italiani, per fare un po' parte ridere, dei muscolari. Braccio di ferro con la Merkel, perdiamo sicuro. Se parliamo di questa procedura di infrazione aperta per il discorso della mancata rilevazione delle impronte, semplicemente bisognerebbe fregarsene. Fregarsene, non succederà nulla, non è una catastrofe, se anche l'Europa andasse avanti, le procedure di infrazione sono lunghe, l'Europa ha una burocrazia molto complicata, e poi alla fine dicessero l'Italia sbaglia, e chi se ne frega. Cioè, capito, Oscar, è fantastico. Flavio Tosi dice: ma noi opponiamo il tanto l'Europa, no, arriva tra 10 anni forse a sanzionarci. Chi no, se ne però frega? Voglio dire che ci sia un intervallo temporale rispetto a una priorità, e che la priorità dovrebbe essere quella. Cara Merkel e cari tutti i leader del Consiglio europeo di domani, ma lo ripogliamo in mano il dossier sulla redistribuzione delle quote per dimostrare che l'Europa c'è, oppure tutte chiacchiere? Perché se non procediamo alla redistribuzione, l'effetto di annunci unilaterali come quella della Merkel è quello che abbiamo visto, cioè l'Europa non esiste e la crisi diventa sempre più quella nostra, della Grecia e dei paesi di confine. Questa secondo me è una priorità politica, metterla su quello. In effetti picchiare la gente per prendere le non impronte, è una bella con risposta, tutto che anch'io dico che per sicurezza è ovvio che bisogna identificare tutti, però per esempio ho scoperto su questa vicenda, anche qui sono stati i poliziotti a dircelo, che i tempi per esempio di soggiorno nel CARA-CIE, che sono limitati, no? E che a propria volta rappresentano oramai un limite anche all'identificazione con successo di tutti quelli che arrivano alla prima ondata in Italia, quelli anche devono essere autorizzati e concordati con l'Europa, e in realtà non sta venendo l'ok alla richiesta di darceli più lunghi, che è un controsenso rispetto alla contestazione che noi non li identifichiamo. Quindi questa è l'Europa con cui dobbiamo fare conto. Effettivamente è tosi la questione della ripartizione, non si sa più nulla, non so, da sindaco lei come la vive? Guarda, la questione della ripartizione è un approccio che da un punto di vista teorico poteva avere una praticabilità, da un punto di vista pratico appunto è una cosa di una complicazione colossale l'attuazione, perché devi identificarli tutti, mandarli tutti, gestirli. Si è visto che poi ci sono paesi come la Svezia che ha detto: ma no, adesso abbiamo altri problemi, aspettiamo, ne parliamo la prossima volta, intanto rallentiamo. Quindi per questo dico, in questo caso bisogna avere un approccio molto pragmatico, e finché l'Europa non si prende la responsabilità di blindare i confini esterni, e blindare i confini esterni vuol dire fare una missione militare sostanzialmente, navale o di terra, dove impedisci che i confini europei vengano presi d'assalto, ed è l'unica cosa che l'Europa seria può fare, o altrimenti, ripeto, Renzi alla Merkel va là e gli dice: bussette te, abbiamo una FIFA boia della procedura di infrazione che ci stanno facendo, chi se ne frega, infatti fra qualche anno ci diranno che non prelevavamo le impronte, non ci faranno nulla, ci daranno un'illusione di euro di multa, tanto tenere qua e gestire i clandestini costa qualche miliardo. E quindi proprio veramente finché non si trova un accordo serio di modifica di Dublino 2 e anche di revisione di Schengen, perché poi c'è un problema anche di frontiere interne, fregarsene altamente. Noi purtroppo qua dobbiamo finire. Oscar, mi ricorda un po' il cucù, il bubusette te lo ricordi il cucù di Berlusconi? Vabbè, ci dobbiamo fermare qui, caro Oscar. Tu sei a Roma, tra l'altro, ma domani torni. Torno immediatamente, perché la quantità di buche che ho preso nella circolazione serale stamattina è tale che ho fatto già il pieno per il prossimo anno. Non invidio il commissario Tronca, perché a me pare un'impresa impossibile. Le buche di Roma che attentano Oscar Giannino. Attentano al fondoschiena di chiunque, mica il mio. Il mio non vale più di quello di chiunque altro. Torna qui, ci troviamo domani. Va bene, continuate con la 24. Giannino, è come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi...